il gigante nano 80. Fatti, personaggi e musica di Alberto Chierici, Luca Valdessara, Laura Bavatti, Erika Bellocchio, con la collaborazione di Loredana Martinozzi. Ciao a tutti, 16.30, il gigante nano, martedì. Oggi manderemo in onda delle interviste che la nostra troupe ha fatto per le vie di Bondeno qualche giorno fa. Si è aggregato qualcuno a noi, qualcuno che comunque lavora sempre all'interno della nostra radio. Direi senz'altro indugi di partire con le interviste. E la prima l'abbiamo fatta a due ragazzi che abbiamo incontrato davanti, come del resto si saprà dall'intervista, davanti al municipio. Davanti al comune di Bondeno vorremmo sapere da questi due ragazzi che abbiamo incontrato se ascoltano la radio. Tu ascolti la radio? Qualche volta. Solitariamente? Sì. E tu? Sì, anch'io qualche volta. E quali programmi ascoltate della radio di solito? Su quali ore? L'ho ascoltato una volta. Sì. Ti ho ascoltato, no? Sentiamo. Una volta di lui a Chierici, poi mi ricordo tre volte, no? Sì, ascolti delle altre radio tu? Ma no. No? Solo così quando ti capita? Sì. E tu ascolti delle altre radio? Sì, quella Radio Hockey. Radio Hockey Bondeno? Sì, allora sai che esistono due radio Bondeno? Sì. E qual è secondo te la migliore? Non lo so, perché ascolto poche volte e ora... Non c'hai un parametro di comparazione. Ma potresti dire quali sono i tipi di programma che ti piacciono di più? Mi piace di più la musica di adesso, per esempio. La disco music? Sì, la disco music e... Basta? Sì. Io preferisco Radio 8 Ferraresi perché in Radio 8 va meno, cioè, diciamo, quasi sempre dei programmi di disco music, però la disco music non è che mi piace molto. Ho capito. E tu invece sei almeno famoso della musica rock. Sì. Ascolta, ti piacciono i Ramones? Scusa, cioè ripeto per favore, non hai sentito? I Ramones? No. Sei sicuro? Sì. Vabbè, andiamo avanti. Ecco, tu ascolti Radio Alto Ferrarese? A volte. Solo, cioè, quali programmi ascolti di solito, quando ti capita? Alla sera. Alla sera i programmi da... Qual è il tipo di musica, che ti piace ascoltare? Il rock. Allora suppongo che tu conosci Ramones? Sì. Ti piacciono? Sì. Tu non pensi che bisogna programmare i Ramones almeno tre volte al giorno per radio? Sì. Adesso mi sapresti dire perché, cioè, aspetta, per te era migliore Radio Alto Ferrarese, oppure, cioè, per quelle che ci sono delle altre radio che... Delle concorrenti, no? Ci sono delle concorrenti che possono così superarci? Non lo sai, tu ascolti solamente noi o ascolti anche delle altre radio? Ascolto anche delle altre radio. E quale? Quelle che presentano rock, quella musica? Sì. Ecco, sono qui in Piazza Bandiera questa volta, è entrato un altro ragazzo. Io ascolto Radio Alto Ferrarese? No. E qualche altra radio? No. Quindi tu non hai la radio con l'FM, quindi non ascolti nessuna radio proprio perché non ti piacciono oppure non è... Non mi attirano. Non ti piacciono? Sì. Ecco, allora, ci sono tante radio che permettono della musica che a te piace, però questo te non interessa. No, non ci faccio caso. Cioè perché tu in genere ascolti musica durante la giornata? Sì. E allora perché non ascolti dalla radio, ma bensì preferisci invece magari ascoltare da un disco o da una cassetta? Non mi attira di stare, non so, anche in casa o a bar, cioè ascoltare la radio. Cioè se resti in casa preferisco ascoltare un disco, no? Cioè, ma pensi, cioè questo qui è motivato dal fatto che a te non piacciono in genere come sono fatti i programmi radio, Oppure, non so, cioè dal fatto che tu dal disco invece ti senti un intero LP o cose così? No, cioè... Hai mai provato ad ascoltare una radio libera tu? Sì! E adesso hai deciso che non è il caso di ascoltarle? No, per me no, ma... Non ci hai mai sentito neanche così? Radio Alto Ferrese non l'ho mai sentita. Mai. Radio Alto l'ho sentita una volta, però... Così, bravo, perché era il barco, c'era la radio accesa. Ascolta, a te piace detto in genere la musica di discoteca, sì? E perché questo? Cioè, perché magari, cioè, preferisci questo genere di musica magari invece che rock, rock così normale, oppure... Pop? Perché? Beh, in discoteca solo perché ci sono altri ragazzi e hai modo di trovare altra gente o perché ti piace veramente la disco musica? Cioè, mi piace anche la disco musica, comunque è anche un modo per trovare degli altri ragazzi. Altre ragazze, ecco. Ok, d'accordo, ti ringraziamo, ciao. Ciao. Ecco, dopo queste due interviste che sono andate, direi di andare con il primo pezzo in programma per oggi, che è un pezzo di Alberto Fortis, che poi, come il nostro solito, poi vi annuncerò. Gambe inesistenti e una piaga sulla bocca che seccava il suo sorriso. Mi parlava rassegnato con la lingua di chi spera, di chi sa che prenotato sulla sedia di lilla. Ogni volta che rideva stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara. Le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara. Ripeteva delirando, penso troppo al mio futuro, penso troppo e vivo male, penso che tra più di un anno cambieranno i miei progetti, penso che tra più di un anno avrò nuove verità. Ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, con il giorno e tanto amore, con i fiori di lilla. Oh, quanti amici hanno tradito, continuavo innervosito. Quanti amici hanno tradito per la causa dell'amore. Sono andato a casa sua, sono andato con i fiori. M'hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare. Ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare sulla sedia di villa. Yeah. dopo questo pezzo di Alberto Fortis, La sedia di Lillà, continuiamo con l'intervista che abbiamo fatto, come ho detto ad apertura di trasmissione, qualche giorno fa qui a Bondino. Direi di passare senz'altro alle registrazioni. Se ascolti in genere la radio, o se sei solito a casa di ascoltare le radio, di radio che puoi dire. Non ascolto la radio, più che altro ascolto le registrazioni. Sei in grado di dare un giudizio su come sono le radio qui a Bondino? Sono due, Radio Alto Ferrarese e Radio Hockey. Ti ho detto che Radio Alto Ferrarese ascolto qualche volta, insomma così. Cioè, che cosa ti piace di Radio? Cioè, che tipo di programmi? Non che sono i programmi di Cerone, ci saranno cantautori italiani, cioè tipo Battisti, quella roba lì. Però, cioè, io preferisco Radio Alto Ferrarese, che è la radio più bellissima, perché sono tutta quali tipi di cantautori ti piacciono? Ha detto Lucio Battisti. E perché questo? Cioè, sai che adesso ce ne sono tantissimi in giro, cioè, non so, dai vecchioni, sono quelli politici indiati, ci sono molti di gente di nuovo, ma adesso tu hai detto che preferisci Battisti, perché questo? Cioè, Battisti, ce ne sono anche tanti altri, comunque mi piace Battisti perché, cioè, per i testi, cioè, per il tipo di musica, cioè, è diverso da tanti altri. E voi che tipo di musica preferite? Di musica oppure musica di discoteca? Io ho visto la discoteca. E mi sapresti dire per quale motivo tu ascolti il genere del registratore invece della radio? Perché ascoltando il registratore posso ascoltare la musica che piace a me, invece ascoltando la radio non trovo su, cioè, dei dischi che magari a me non piacciono. I programmi, cioè quelli che trattano di problemi sociali, non so, ad esempio, sono dedicati programmi sul consultorio o anche sì, di altro tipo, però riguardo al sociale, cioè pensi che sia utile la funzione che può avere una radio di, come, non so, sollecitare, portare, insomma, un mezzo che ha larga diffusione, cioè che può essere sentito tra tutti nell'ambito del territorio per sentire i problemi, così. Ma può anche essere utile, però penso che in radio privata, cioè, la gente l'ascolti non per sentire questi problemi, solo per sbagliarsi, secondo me. Per me no, perché cioè, io ascolto Tele Sassuolo, poi per televisione, e cioè, ci sono delle rubriche sui problemi, sui problemi attuali che sono valide perché cioè, con gli interventi dei... Così anche gente fuori, ma che telefona per dire il proprio parere, secondo me invece... Sì, cioè, chiede la gente, per me ascolto una radio per svagarsi, cioè, non è che accendi pensando, adesso ascolto un programma culturale, così. Cioè, okay. Avete detto che ascoltate anche musica di discoteca e così, andate in discoteca voi? Sì. Questo perché? Per quale motivo? Cioè solo per ballare? No, per stare anche in compagnia. Cioè quindi anche per trovare dell'altra gente? Sì. Scusa, ti piace Ramones? Chi è? Ramones. Non conosci Ramones? Cioè, qua è? Mi vai a vedere Ramones? Certo. Quasi quasi. No, ci ha dato molto di bambino. Cioè, non lo so. A te piace Ramones? Tanto. Pensi che bisognerebbe programmare almeno 8 volte al giorno per lavorare? Non solo Ramones, comunque almeno musica rock e meno musica da discoteca. Ok, perfetto. Ciao, bro. Dopo quest'altro brano di intervista direi di passare al secondo pezzo in programma per oggi, che è tratto da un album da una raccolta di Procolaro. You let it float. Africa. Questo era Assalto Dog dei Procolaro, un tratto da una raccolta. Allora, senz'altro proseguiamo con altre interviste. Incominciamo con uno stralcio. Cioè abbiamo preso da un'intervista un po' più lunga il brano più significativo che adesso senz'altro vi mandiamo. Sto praticamente solo quell'ora lì perché è l'unica ora in cui sono di solito in macchina in giro per Bondeno, dove c'ho l'unica radio FM della mia vita. Dopo questo brano abbastanza significativo, secondo me, andiamo con l'intervista ad un personaggio che abbiamo incontrato sempre davanti al municipio, che era la nostra postazione un po', ed è l'assessore ai lavori pubblici, come del resto si capisce bene dall'intervista. Direi, prego la regia di mandare l'intervista. Incontriamo casualmente l'assessore ai lavori pubblici del comune di Bondeno e vorremmo chiederle se lei ascolta Radio Libere. Sì, ascolto Radio Libere, ma fondamentalmente quella di Bondeno. Sì, d'accordo. Sì. Qual è la musica che le piace di più e se ascolta soltanto programmi musicali, io penso di no, o anche altri programmi? Ecco, programmi musicali di rado, proprio appena ho preso di accendere la radio, proprio per smettere programmi musicali. La musica che preferisco è quella classica, adesso ti posso confermare che sono disponibile in audita. Volevo chiederle se ritiene che il livello così di qualità dei programmi delle radio libere sia migliorato rispetto ad anni passati o sì, meno. Sì, credo sia notevolmente migliorato e credo anzi che proprio sia merito della radio libera se alcuni problemi locali, soprattutto più addirittura della radio nazionale, o di altri programmi così che oggi sono sul mercato. Non sì, a lei non pensa che l'ente pubblico dovrebbe interessarsi alle radio libere e magari anche aiutarle a sopravvivere, ecco, visto che sì, non è molto facile. Ecco, l'aiutare a sopravvivere, credo, soprattutto dal punto di vista della qualità delle informazioni, sì, dei metodi appunto di collaborazione, anche così cooperativistico, se vuoi, di fornire messaggi, di fornire informazioni alla cittadinanza. Questo credo sia un problema, sì, che debba essere migliorato e anche, anzi per meglio dire, studiato, affrontato con la serietà anche di... Quindi il comune si muoverà in questo senso, almeno? Sì, credo che questo sia un nostro problema. Abbiamo discusso di questo fatto, della presenza di queste due radi locali, crediamo sia un mezzo importante. Ma finora la collaborazione, visto, questo è noto, l'avete avuta solo con noi o anche con l'altro emittente? No, mi risulta che appunto alcuni componenti di giunta, il sindaco è andato nell'altra radio, chiaramente quando invitato non vedo perché non possa partecipare a entrambe le radio, anzi deve partecipare a tutte e due le radio, perché hanno campi d'ascolto, probabilmente interesse pubblico forse diverso, forse lo stesso, non saprei. Beh, diverso. Perché, ecco, se appunto questa misura tanto vale guadagnato. Credo appunto che si debba affrontare un discorso che non sia soltanto quello della casuale intervista sul singolo problema, eccetera, ma un programma che tenga conto maggiormente quelle delle informazioni dell'ente locale, dei problemi sociali che esistono nel nostro territorio. Questa d'altra parte è una nostra necessità, oltre così a informazioni dovute. La ringraziamo. Dopo questa intervista a Mirko Dondi, assessore, andiamo con un altro pezzo per oggi, è ancora tratto dall'album di Alberto Fortis ed è Nuda senza seno. Il nome però non lo dico, gli dico solamente che non ero nel mio letto neanche nella mia città. Sono svegliato, avevo tanta fame, ma dentro il frigo puro non c'era niente. Mi son voltato e dopo averti visto un insalato preparato, mi gradisco un po' anche lei. Se non tuo ci voglio fare un'insalata con un po' di fieno, mi è stato disposto a non farla perché un uomo già potrebbe morire per te. Mi è stato disposto a non farla perché un uomo già potrebbe morire per te. Immaginarti nuda e senza seno mi fa morire da ridere, amor mio, e voglio fare un'insalata con quello che ti ho tagliato, mi sta un po' del cuore mio. Immaginarti nuda e senza seno, sapessi che delizia, amore mio, e non ti impressionare per il sale, brucerà solo un pochino ma non fa poi tanto male. E insieme al seno tuo ci voglio fare un'insalata con un po' di fieno. Non ti è stato risposto, non parla perché una mucca potrebbe morire per te. Non ti è stato risposto, non parla perché una mucca potrebbe morire per te. Non ti puoi immaginare quanto è vero, perché mi vedi buono e remissivo, ma il pensiero mio più vivo, guarda, non lo saprai mai. E all'insalata fatta col tuo seme ci voglio aggiungere un po' di cervello, ma il tuo, scusa, è arrabbiato con Dio, non mi sembra del più bello, e ce ne aggiungo un po' del mio. E insieme al tuo ci voglio fare un'insalata con un po' di pieno. Non mi è stato risposto, non parla perché una mucca potrebbe morire per te. Non mi è stato risposto, non parla perché una mucca potrebbe morire per te. Dopo questo brano di Alberto Fortis andiamo con un'altra serie di interviste. Prego la regia di mandarle in onda. A casa la radio. E che radio ascolti? Dai. Radio Alfa. Eh? Radio? Radio Alfa. Ah, quella Radio Alfa. E questo perché? Perché mi piace. Cioè ti piace la musica? No. Ti piace la musica che è in programma? Cioè che programma? Cioè, tu che genere di musica preferisci? Sapere. Dai, cioè, che genere di musica ascolti in genere a casa? Hai dei dischi a casa? E che dischi compri? Sì. Ma cioè, di che genere? Disco, rock, italiana? Disco music. Cioè, e perché tu preferisci la disco music? Vai a ballare? Sì. Cioè, non pensi che però la disco music sia un po' sempre con lo stesso ritmo, un po' ossessiva? Molto ripetitiva nel suo genere. A me piace. Sì. Scusa, ti piacciono i Ramones? Ti piacciono i Ramones? Chi sono? Cioè, sai chi sono i Ramones? Cioè, ma li hai mai sentiti? Sì. Guarda, sono veramente belli. Te li consiglio io. Dai, ciao, grazie. Ascolta, tu allora ascolti in genere a casa le radio private? Sì. E che radio senti? Radio Carpi. Radio Carpi. Canale 20 su canale 7, insomma. E, perché? Per i tipi di programma che fanno, per la musica che programmano? Musica della discoteca. E perché ti piace la disco music? Oh, non lo so. Mi piace? Compri anche dei dischi? No. Ma non pensi che sia molto ossessiva il suo ritmo? Cioè, sia molto ripetitiva. Sì, però, boh. Ascolti anche altri tipi di musica? No. A te piacciono i Ramones? No. Però sono un sacco belli. No. Allora, te li consiglio. Grazie. Grazie. Ascolta Radio Alto Ferrarese? No, non ho solo la televisione, perché la radio non ho. E che genere di musica ti piace? Cosa? Che genere di musica ti piace? No, un po' tutte, pochissime ascoltabili. Cioè, compri dei dischi? No. Ho capito. Ho il registratore, mi basta quello. Ho capito. Ti piace?